Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Benvenuti a voi e bentornato ad Alberto Pellai qua accanto a me. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi parliamo di calcio. Diamo proprio un calcio al pallone e non solo al pallone, perché ci sono tantissimi genitori che in questi mesi stanno accompagnando i loro figli sui campi da calcio, se ne vedono di tutti i colori. Degli incontri e degli scontri. Sì, e tra l'altro a volte molti genitori in realtà sono stati ben educati, formati dagli allenatori della loro squadra, poi vanno magari sul campo della squadra avversaria e vedono proprio genitori allo sbaraglio, potremmo dire così. Perdono la testa. Allora, noi vorremmo iniziare a farvi ascoltare che cosa ha scritto un allenatore su un cartello che ha proprio fatto appendere sul campo da calcio in cui allena i suoi ragazzi. Ragazzi, intanto prima di ascoltare io volevo ringraziare Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza e ricordarvi il nostro numero verde. Poi sentiamo subito questo cartello, 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. Quindi se ti fate per i vostri figli, se i vostri figli giocano a calcio, sentite. Ciao a tutti. Questo è il campo di gioco dei bambini della scuola calcio della AS Varese 1910. Noi qui ci divertiamo, impariamo a rispettare le regole, i compagni ed i mister. Non giochiamo mai contro, ma con i bambini delle altre squadre. Non rovinateci il piacere di calciare un pallone. Evitate i commenti e gli atteggiamenti esagerati. Non è colpa nostra se qualche genitore è dispiaciuto per non essere diventato calciatore. Urlare non serve a nulla. Lasciateci sognare. Divertirci è un nostro diritto. Sostenerci sempre è un vostro dovere ed è una gioia per noi. Grazie a tutti. I bambini della scuola calcio AS Varese 1910. Magnifico. E noi abbiamo l'allenatore in linea, si chiama Marco Caccianiga. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì. Buona giornata. Senta, è vero che voi, di calcio sono veramente sono poco preparata. Si chiamano mister, vero? Gli allenatori. Sì, in gergo calcistico gli allenatori si chiamano mister, mentre per esempio nel basket si chiamano coach. Ecco, allora noi possiamo chiamarla mister e tra l'altro sì, farle anche gli auguri perché ha compiuto gli anni lei. Ah sì, grazie, siete gentilissimi. Sì. Senta, io devo dire che insieme ad Alberto abbiamo parlato a lungo di questo cartello e le abbiamo dato 1000 punti. È magnifico. Io vi ringrazio. Anche perché io nasco principalmente come educatore, perché io sono insegnante di educazione fisica prima che un allenatore. Sì. E quindi noi nella scuola calcio del Varese, soprattutto per le fasce di età, in età scolare, quindi più piccoli, diciamo dai 6 ai 10 anni, diamo un'impostazione estremamente didattica ed educativa, perché deve essere proprio il piacere di giocare al pallone. Certo. E noi cerchiamo di dare questo. Io ricordo che Giovanni Arpino, che è stato un grande scrittore, scrisse che il calcio è un mistero senza fine bello. E quindi noi cerchiamo di dare il piacere ai bambini di calciare un pallone, senza intromissioni, senza atteggiamenti davvero esagerati da parte dei genitori, perché non c'è niente di più bello che vedere un bambino divertirsi quando gioca al pallone. Questo è quello che pensiamo noi. Ed è vero, Alberto. Sì, e credo che dovrebbe essere realmente così, perché stiamo tra l'altro parlando di bambini, ragazzini tra i 7 e i 10 anni, tra gli 11 e i 13 anni, cioè ancora è un gioco, non è certamente un mestiere, non è una professione, non è il grande sport che vediamo in televisione, ma davvero sempre più spesso si vedono mamme e spesso anche papà e nonni. Esatto, che hanno un po' perso i termini della questione. Per questo motivo abbiamo chiamato in linea con noi anche la dottoressa Lucia Castelli, psicopedagogista del settore giovanile dell'Atalanta, che lavora tantissimo con ragazzi, tra l'altro che stanno già facendo una scelta anche professionistica, perché lei segue gli adolescenti da cui potrebbero derivare poi futuri campioni, e mamme e papà ne incontra davvero tanti, sia fuori dal campo che sul campo. Buongiorno dottoressa Castelli. Buongiorno e bentornata. Grazie, buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. Senta, ha fatto bene il nostro mister a cantargliele? Ma, a scriverle però insomma. Saluto il collega Caccianiga, anch'io sono un insegnante di educazione fisica oltre che una pedagogista, è veramente una lode a questa bellissima iniziativa, bravissimo. Ma senta mister, lei ha sopportato un po' e poi vedendo che la situazione peggiorava si è deciso a scrivere oppure l'ha fatto di così di impulso subito? No, l'ha detto lei. Anzitutto ricambio i saluti alla dottoressa, grazie mille. Ha detto giusto lei, ho sopportato un po', poi dopo non ce l'ho fatta più. L'ho scritto come fossero i bambini perché volevo che fosse quasi una sorta di pugno nello stomaco, perché finché continuiamo noi allenatori a riprendere i genitori per cercare di spiegare determinate cose, non ha la stessa valenza, secondo il mio parere, che una letterina scritta come fosse il linguaggio dei bambini. Anche perché io ho visto che si abbassa sempre di più il limite di età nel quale i genitori davvero si inseriscono in maniera scomposta ed esagerata. Il cartello è nato per una serie di intemperanze accadute, tenetevi forte, per le categorie di età dei bambini nati negli anni 2000 e 2001, quindi provate un po' a pensare che cosa significa andare ancora più in alto. E quindi io ho sopportato fino a un certo punto, poi d'accordo anche con altri colleghi, abbiamo pensato di esporre questo cartello. Tra l'altro non l'abbiamo detto direttamente alla società, sì. È stata una sorpresa che però anche il presidente della nostra società ha apprezzato molto. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme. Quando i genitori diventano tifosi e perdono la testa. Alberto, a te è mai capitato di essere esageratamente appassionato? No, guarda, io tra l'altro lo sai proprio anche in famiglia, quando il mio bambino ha deciso che avrebbe voluto iscriversi a una squadra calcio, ho proprio un po' temuto questo aspetto di sovrainvestimento dei genitori che stanno intorno ai bambini e che spesso davvero spingono troppo. Vorrei tra l'altro chiedere ai genitori all'ascolto se magari anche loro si sono trovati nella mia stessa posizione, cioè a volte davvero fare molta fatica ad accettare un eccessivo investimento di mamma e papà su questa carriera, quella che loro considerano una carriera sportiva del figlio, mentre fondamentalmente stiamo giocando. Io ho sentito storie di genitori che hanno proprio ritirato i figli, non tanto perché non piaceva loro quella zona di divertimento, ma piaceva proprio l'ambiente. E quindi raccontateci un po' le vostre storie. Vorrei chiedere alla dottoressa Castelli, visto che è una pedagogista, qual è il profilo ideale del genitore che accompagna suo figlio in questa avventura del calcio? Cosa dovrebbe fare e cosa dovrebbe non fare un genitore? Sì, allora, innanzitutto voglio spendere una parola a favore dei genitori, perché a mio avviso non si nasce genitori di bimbi sportivi, lo si diventa, e poche sono le occasioni di formazione. La parola magica è formare i genitori, e non tutte le società hanno i mezzi e gli strumenti per farlo. Quindi, però sempre di più ci stanno credendo anche le amministrazioni comunali, la federazione, ma anche il centro sportivo italiano, insomma, stanno investendo sulla formazione dei genitori, perché appunto non vanno demonizzati ma vanno aiutati a superare questi momenti di crisi. E poi io penso che il 70% dei genitori sia assolutamente equilibrato, cioè mostri delle aspettative commisurate alle reali capacità dei figli. Il problema è che noi ci ricordiamo dell'altro 30% che io divido in quattro categorie. Ci sono i genitori procuratori, i genitori ultra, i genitori iperprotettivi e i genitori assenti. Queste quattro categorie non fanno il bene del figlio, non fanno il bene dello sport, e quindi andrebbero aiutati a diventare genitori equilibrati. I genitori equilibrati sono quelli, a mio avviso, che sono soddisfatti di loro, cioè loro sono soddisfatti della loro vita, della loro attività sportiva, e non pretendono dal figlio quello che loro non hanno potuto raggiungere. Questo è il genitore ideale. Il secondo tipo di genitore ideale è quello che si controlla dal punto di vista emotivo affettivo, controlla le sue aspettative, e l'altro genitore è quello che si informa, che si forma, che è disponibile a colloquiare con i mister, con la dirigenza, e che così ripone delle aspettative giuste verso il figlio, perché come avete detto bene voi, guardate che poi è la passione, è il gioco che tiene unito il bambino al calcio, non è di sicuro lo stress che deriva dalle aspettative del genitore. Ma avrei tante storie da raccontare, insomma, rispetto a questo, bambini che hanno mollato per lo stress derivante dal genitore, insomma. Andiamo a Roma, ci aspetta Vincenzo. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi. Io chiamavo proprio perché io ho avuto un'esperienza come dirigente di una società di calcio, proprio perché mio figlio si era iscritto a questa scuola calcio quando aveva 7 anni. Sì. E l'ho seguito fino a 2 anni fa in tutti i settori giovanili, mano a mano in crescita. E devo dire che io, pur avendo giocato, ahimè, diversi anni fa a calcio per diverso tempo, trovo che la differenza rispetto ad allora è che adesso la vera tragedia, la chiamo così, sono le scuole calcio, in quanto i genitori, dovendo pagare una retta, sì, si sentono autorizzati a intervenire con la società, l'allenatore: mio figlio perché non gioca, ha giocato poco, non perché ha giocato in quel ruolo, sarebbe meglio, oltre a caricare di aspettative e di premere sul proprio figlio, perché tutti quanti, o la maggior parte, come diceva anche la dottoressa, ritengono di avere un Maradona in casa. E quindi caricano questi ragazzi di una pressione veramente notevole. Questa è la vera tragedia rispetto a quando giocavo a calcio io. Ai miei tempi c'era solo la leva calcio, cioè io ragazzo andavo a una società di calcio, facevo il classico provino, se venivo preso la famiglia non c'entrava nulla. Io da quel momento avevo una dotazione sportiva di indumenti e quant'altro, ma la famiglia non c'entrava affatto, tranne se qualcuno voleva poi venire a vedere le partite, ma non aveva nessun altro tipo di ingerenza. Questo è stato il grande passaggio, oltre al fatto che ovviamente nel frattempo nel calcio sono entrati talmente tanti interessi di tipo economico, ecco perché poi la gente crede di avere sempre un Maradona dentro casa. Questo è il punto. Volevo sentire il parere del nostro mister. Sì. Vincenzo dice: è proprio cambiato, no, il modo il mondo del calcio. Sì. Io credo che abbia ragione. Teniamo presente una cosa, che ci sono alcune società che adottano la tecnica della selezione pura, diciamo in tenera età, cioè i bambini in età scolare. Noi non abbiamo adottato questa tecnica perché pensiamo che ci sia spazio per tutti, ci sia la possibilità di dare le basi motorie, coordinative, di agilità, destrezza, per poter far svolgere ai bambini un'attività motoria corretta finalizzata al gioco del calcio. Per quanto riguarda il Varese, solo più avanti noi operiamo a livello di selezione, quando hanno 13 anni. Prima diamo lo spazio a tutti, chiaramente ognuno gioca secondo le proprie possibilità, ma diamo a tutti la possibilità di giocare, di confrontarsi, di divertirsi, di calciare un pallone. Però il signor Vincenzo ha assolutamente ragione, il fatto che probabilmente i genitori pagano una retta li fa investire di questa di una sorta di possibilità di inserirsi anche nei discorsi tecnici e quindi pretendere determinate cose da parte dell'allenatore riferito al proprio figlio. Ci stanno arrivando molti sms. C'è una domanda di Nadia che vorrei rivolgere a tutti, a voi due. Carissimi, esistono iniziative di ammonizione verso genitori di bimbi calciatori che fanno intemperanze sul campo? Voi potete ammonire o far ammonire un genitore? Dottoressa Castelli. Ma diciamo che è assurdo dover introdurre per regolamento l'educazione del genitore, mi sembra una cosa forzata. È già una sconfitta, bravissima. E allora sta alla sensibilità delle società, noi per esempio lo facciamo, di parlare con i genitori consigliando il giusto atteggiamento, questo lo si può fare. So che in passato alcuni bambini in provincia di Empoli hanno fatto lo sciopero dei bambini contro l'intemperanza dei genitori e per due domeniche non hanno svolto il campionato contro l'atteggiamento scorretto dei genitori. Insomma, non vorrei arrivare a questo. Io credo molto nel dialogo e guardate che siamo un po' all'anno zero sulla formazione dei genitori, cioè educhiamoli questi genitori prima di ammonirli. Cioè, va bene anche la punizione, per l'amor di Dio, ma io non credo all'educazione fatta con la coercizione. Io penso che occorra tanta pazienza e moltiplicare le iniziative di formazione verso i genitori con tanta pazienza, perché non è che poi i genitori sono lì a bussare alla porta per essere formati. Vincenzo ci chiama invece da Genova. Vincenzo, buongiorno. Senta, io sono un istruttore di una piccola squadra di calcio di Genova. Sì. E il Baiardo. Intanto volevo fare i complimenti al mister del Varese perché ha detto cose sacrosante. E vorrei dire alcune cose riguardo agli istruttori di calcio. Sì. A mio avviso la federazione investe pochissimo, nel senso che secondo me sono inutili, tra virgolette, i super corsi per gli allenatori professionisti, perché sono già in grado di allenare senza dover imparare nulla, mentre i super corsi andrebbero fatti per gli istruttori dei bambini, perché con i bambini si possono fare dei danni. Grazie Vincenzo. Mister, dopo essersi presi i complimenti da Vincenzo, vuole fare un... Io lo ringrazio e devo dire che ha assolutamente ragione. Anche perché diciamo che l'altra faccia della medaglia del genitore è l'allenatore connivente, perché se il genitore trova spazio all'interno di una società per pretendere o per stressare il figlio, perché l'allenatore gli dà questa possibilità, ovviamente poi dopo il meccanismo si interrompe. Comunque ha assolutamente ragione, io credo che i migliori vadano messi nell'attività di base della scuola calcio, quindi sono d'accordo che la federazione dovrebbe insistere di più sulla formazione del personale qualificato. Questo è fondamentale. Dottoressa Castelli, a questo proposito, che genere di formazione educativa deve avere un mister? Si può diventare mister semplicemente essendo bravi nella tecnica del calcio, o si deve avere anche una formazione per stare in relazione con i bambini e con i loro genitori? Ma io mi piace pensare che il mister debba avere quattro competenze. La competenza tecnica sicuramente, che è quella di possedere bene il gesto tecnico, saperlo dimostrare e saperlo insegnare. La competenza organizzativa per non perdere tempo, perché abbiamo poco tempo per allenare questi bambini che passano anche fin troppo tempo seduti. E altre due competenze importanti, quella metodologica, come insegnare il calcio ai bambini, è molto importante, con il metodo partecipativo, esplorativo, facendo i bambini diventare protagonisti, e la competenza relazionale, cioè come rapportarsi con i ragazzi con un linguaggio positivo, essere autorevole, pretendere il rispetto delle regole, ma nello stesso tempo dare molta cura, attenzione relazionale, e quindi insomma queste quattro competenze, come dice Howard Gardner, il famoso psicologo americano, non si improvvisano, vanno costruite. Una competenza prima dei 10 anni non può essere ritenuta tale, quindi occorrono almeno 10 anni di studio, di pratica, di corsi, di aggiornamenti, di cultura, e poi in queste quattro ambiti, figuratevi voi, altro che super corsi devono fare gli allenatori di un settore giovanile. Tecnica, organizzativa, metodologica e relazionale. Alberto ed io abbiamo preso appunti. Questa casa non è un albergo. Genitori tifosi, eccessivamente tifosi direi, parliamo di genitori che si lasciano coinvolgere in modo direi smodato e fanno il tifo per i loro ragazzi, accendendo tra loro discussioni e quindi in qualche modo ostacolando, no, il gioco dei loro bambini. Siamo partiti da un cartello di un mister, Marco Caccianiga, che è in linea con noi, e lo stiamo commentando insieme anche alla dottoressa Lucia Castelli, che è psicopedagogista del settore giovanile dell'Atalanta. Sono ancora in linea con noi, ma ci ha raggiunto anche anche l'avvocato Giuseppe Castronovo, che è presidente dell'Agenzia Internazionale Prevenzione per la Cecità. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Con lei usciamo un attimo dal tema della nostra trasmissione, perché vogliamo insieme a lei ricordare la giornata di domani, una giornata importante, la giornata nazionale del cieco, 13 di dicembre, e quindi quale migliore persona di lei, che con la IAPB sta veramente facendo tante iniziative, tante campagne per sottolineare l'importanza di questa, della vista, e quindi eccola con noi. Quale migliore giornalista Radio 24 che si interessa della solidarietà di tutti e che io sempre ringrazio calorosamente. L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ha una serie di iniziative in corso, sempre quella delle nostre, ora sono 15 unità mobili in Italia che fanno visite gratuite, perché un terzo dei ciechi in Italia non sarebbe tali se avessero praticato la prevenzione della cecità. Quindi la giornata di domani, che coincide con la giornata di Santa Lucia, dedicata ai ciechi italiani, la facciamo per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché si abbia un maggiore rispetto e considerazione dei problemi dei ciechi, ma nello stesso tempo si pensi a che si prevenga la cecità per tutti, bambini, giovani ed anziani. Avvocato Castronovo, grazie per essere stato con noi. Buona Santa Lucia allora. Grazie. Un abbraccio alla Radio 24 e alla bravissima giornalista Nicoletta Garbone. Grazie, buongiorno. Andiamo a Marisa, che ci chiama da Torino. Marisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno, una mamma che ci chiama. Sì, io sono mamma ormai di due ragazzini un po' anziani, perché hanno 15 anni, quindi fuoriusciamo un po' da quello che è la scuola calcio. Però devo dire che abbiamo calpestato nel corso degli anni, da quando i appunto ragazzi avevano solo 6 anni, questo sport. Devo dire che però è vero quello che hai detto finora, che molti genitori si agitano fino all'inverosimile, però bisogna anche dire che il dito va puntato non solo sempre contro questi genitori, ma anche contro alcuni mister che, oltre a essere dei bravi allenatori, oltre ad insegnare a tirare bene un calcio o un pallone, dovrebbero insegnare, curare anche molto di più l'aspetto psicologico. Io parlo per esperienza personale, i miei ragazzi adesso fanno competizione a livello regionale e, nonostante siano magari, non so, puntuali all'appuntamento di allenamento, sono 3 allenamenti settimanali più la partita, a volte non entrano neanche con una luce in campo. Benissimo, io conosco i limiti dei miei ragazzi, quindi posso anche pronto, mi sì, sente? Sì, certo, stiamo ascoltando. Mi scusi. Allora io sinceramente, di fronte a queste persone che magari anziché avvicinarsi ai ragazzi e dire guardate, in questo periodo non so, non mi piacete particolarmente sotto il profilo calcistico, oppure non vi siete comportati bene durante l'allenamento, eccetera, mi piacerebbe, ecco, che ci fosse una mano sulla spalla di questi ragazzi a motivare, mentre il silenzio purtroppo dice tutto e dice niente, insomma. Quindi secondo me bisognerebbe, ecco, che anche loro in qualche modo curassero molto l'aspetto più sottile e psicologico, certo, Marisa, una ragazzina in età così evolutiva come quella dell'adolescenza. Infatti, insomma, Lucia, la dottoressa... Sì, scusi Marisa se la interrompo. Infatti la dottoressa Castelli nelle competenze, no? Citava quella proprio metodologica, ma anche il relazionale. Se Marisa vuole aggiungere qualcosa, passerei se no subito la parola a rispondere. Ma no, guardi, volevo solo aggiungere una cosa brevissima, che comunque nella nostra appunto breve carriera abbiamo incontrato purtroppo anche allenatori che si lasciano andare così ad atteggiamenti, diciamo, poco educativi in campo, magari con parole o gesti, insomma, veramente poco simpatici. Marisa si criminalizza sempre. Certo, Marisa dice secondo me un aspetto molto importante che vorrei discutere con Marco Caccianiga. Le è capitato come mister di trovarsi di fronte mister della squadra avversaria che erano veramente fuori ruolo, secondo quello che lei considera essere nel ruolo del mister, e le è mai capitato di dover fare un intervento correttivo nei confronti di un collega dicendo non si sta così sul campo? Assolutamente sì, anzitutto devo dire che la signora ha perfettamente ragione. E mi è capitato più volte, purtroppo, non poche volte, e addirittura un paio di volte abbiamo anche deciso insieme ai bambini e ai nostri genitori di bloccare la partita e di andarcene per gli atteggiamenti francamente imbarazzanti, anche come diceva la signora, con parole poco opportune, ma nei confronti dei suoi bambini. Cioè c'erano alcuni mister che insultavano quasi questi bimbi perché non riuscivano, ecco, a Marco, fare quello che gli allenatori volevano. Mi scusi mister, io voglio leggerle a proposito questo messaggio. Dovremmo cercare dei mister che siano prima delle persone e poi allenatori. Come possiamo permettere che ci siano mister che al primo errore di un ragazzino usano delle parolacce o bestemmie per richiamarlo? Noi genitori cosa possiamo fare per continuare a fare calcio ai nostri ragazzini? Evidentemente questi messaggi, dottoressa Castelli, provengono da quel 70% di genitori a cui lei faceva riferimento, no? Sì, esattamente. A me non piace mai intraprendere una caccia al colpevole, quindi mi piace invece pensare che gli adulti che ruotano intorno al calciatore, che sono la famiglia, i genitori, le società sportive, dal presidente fino al magazziniere, gli insegnanti, i preti dell'oratorio, gli amministratori pubblici, lavorino tutti per, in modo molto coerente, per proporre dei modelli di sport che siano, per carità, anche competitivi, ma c'è anche altro, insomma. L'Unione Europea ci dice che la definizione di sport è l'attività fisica, organizzata o no, che ha come obiettivi sì l'agonismo, ma anche un obiettivo di tipo di benessere, la salute, e anche obiettivi di tipo socio-relazionali. Allora, se noi facessimo proprio questa definizione, noi intendo gli adulti che ho citato prima, il livello culturale si innalzerebbe di colpo. Sì. E quindi questi episodi di incultura smetterebbero. Ecco, ma questi episodi di incultura ci sono più frequentemente per il calcio, nei campi da calcio, rispetto ad esempio per il rugby, altre attività sportive? Cioè il calcio scatena qualche cosa di diverso rispetto ad altri sport? Beh certo, sicuramente, primo perché lo praticano in la stragrande maggioranza, voglio dire, però guardate che si stanno poi questi episodi diffondendo anche nelle altre specialità, ecco, sportive. Questa non è una buona notizia, quindi, non è una bella notizia. Il calcio è quello che salta all'occhio, ma perché migliaia di bambini lo praticano e quindi è ovvio che salta di più all'occhio. Però è proprio questa non cultura verso, per esempio, quella mamma che ha parlato prima. Sì. No, che il ragazzo di 15 anni non entra, ma perché diciamo che alcune squadre sono impostate a livello agonistico e vabbè, bisogna che le società dichiarino gli obiettivi. Noi abbiamo l'obiettivo di formare i campioni e allora uno non deve iscrivere il suo figlio lì se non è un campione. Ma all'interno della stessa società sarebbe interessante avere due percorsi paralleli, quelli per i ragazzi che vogliono fare carriera e quelli per i ragazzi che vogliono usare il calcio perché gli piace, perché si divertono. Sì. E noi dobbiamo insistere su queste due strade parallele. Le società sportive, poverette, mica hanno tutte queste risorse per fare queste due strade parallele. Ecco che lì entrano in campo, per esempio, le amministrazioni pubbliche, che possono dare una mano, possono dare i bollini di qualità a quelle e quindi contributi a quelle società che abbiano entrambi i percorsi, il percorso agonistico per arrivare alla Champions League e il percorso di ricreazione, di educazione, di divertimento per chi non ha queste qualità eccelse, perché tutti hanno il diritto di fare lo sport, anche quelli poco bravi, insomma. E direi che è un diritto sacrosanto. Alberto, allora noi abbiamo giocato a calcio anche noi, con tanti messaggi. Io voglio tutti mister come Marco Caccianiga e quelli che non sono come lui vadano dalla dottoressa Castelli e si formino un po', perché ce n'è molto di bisogno. E un'ultima cosa, metterei un genitore di quel 70% che sa stare sul campo a lavorare insieme all'arbitro. L'arbitro controlla il campo e un genitore fa l'arbitro della platea. E invece io poi faccio le merende per i bambini, va bene. Torte per festeggiare. Salutiamo allora il mister Marco Caccianiga, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi e un saluto alla dottoressa Castelli, grazie davvero. La dottoressa Castelli, naturalmente, la salutiamo e la ringraziamo anche noi. Grazie, saluto è reciproco, continuiamo così. E va bene, e allora anticipiamo gli auguri di Natale anche, ma ci sentiremo. Grazie ancora. E noi andiamocene, Alberto, ma torneremo sabato. Buona giornata anche a te. Ciao Nicoletta, buona giornata a tutti.